Del lavoro di Calvino cosa avevate apprezzato, cosa avevate amato? Calvino. Calvino in sé. Proprio lui. È un percorso che abbiamo cominciato con Francesco 2 anni fa, da appassionati, da calviniani, tipo i decanziani di setta. Facendo parte della setta di Calvino, ci siamo trovati in un comune umore sull'autore e sul suo modo di essere leggero, che è una delle cose che serve più in questo momento, togliere tutta la pesantezza, sia dal mondo di una certa letteratura, sia dal mondo di un certo teatro, magari mettere un po' più di pesantezza in un mondo di certa politica, però su quello abbiamo cominciato a combattere insieme. Rispetto alla trasposizione, su cosa avete puntato? Ma in realtà noi non prendiamo il testo, in particolar modo perché leggere i classici, in 68, e lo intermezziamo con altri momenti della scrittura di Calvino, come le città invisibili, come le cosmicomiche, insomma, le lezioni americane, momenti salienti che fanno capire all'interno del percorso di tutto lo spettacolo qual era la grande visione che viveva dietro lo sguardo di Calvino, qual era questo suo modo di cercare il libro perfetto che potesse unire le persone, questo suo grande rispetto per la letteratura, per il classico, questa leggerezza appunto che unisce Perseo ai personaggi difficili da pronunciare delle cosmicomiche, ai grandi autori del Novecento. È un percorso appunto sulla grande, come dice Ego, infatti, sulla grande lezione che fa Calvino, che il compito della letteratura è quella di arrivare al pubblico con il massimo dei miracoli, che è la leggerezza. Ecco, considerato che avete inserito più contributi di Calvino, come è architettato, come è strutturato lo spettacolo? Questo mi viene da te. Cerchiamo di rilevare il piedistallo dell'autore e anche il nostro, cioè, ma proprio un dibattito aperto con il pubblico, seguendo l'indagine, come ha detto Davide, calviniana di questo articolo, no? Dell'importanza di leggere i classici, e proprio fare una condivisione. Penso che, insomma, adesso chiaramente lo dobbiamo fare, vediamo che so. È un cabaret nel senso nobile del No, termine, già. cioè quello tedesco, cioè un incontro con la platea e non una divisione, ma una condivisione della bellezza. È un debutto? È un ridebutto già da 2 anni che lo portiamo in giro, però in questa versione l'abbiamo ampliato, allargato, sviluppato, creato. Ecco, un bilancio di questi primi 2 anni con Calvino. Festival, sono state tutte belle serate, bei percorsi. Continuerà il suo viaggio? Ma sì, secondo me sì, con questo format finale, diciamo, questa formazione finale, con Marco, L'ensemble, l'ensemble, esatto, con Marco, Davide, Italia, e Calvino. Facciamo tutte sette con noi. Senti, queste modifiche le avete apportate anche in relazione al rapporto che instaurate col pubblico durante lo spettacolo? Sì, infatti stiamo calcolando i piani B se rispondono a determinate cose o non rispondono. Capiremo tutto durante le serate poi. Guarda, è uno spettacolo che può durare anche una settimana. Bene, e allora ricordiamo Perché leggere i classici di Italo Calvino con la regia di Davide Sacco, con Francesco Montanari e Gianmarco Saurino a Roma al Teatro Vittoria dal 2 al 7 aprile 2019. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Sì, ciao. Ciao. Con Jacob Olesen per parlare della prima nazionale del recital letterario Il Cavaliere Inesistente, tratto dall'omonimo racconto di Italo Calvino, al Teatro del Lido di Ostia dal 30 marzo al 1 aprile e il 3-4 aprile a Roma, al Teatro Torlonia. Jacob, ben trovato. Grazie, ciao, buonasera. Ci eravamo sentiti anche in occasione dell'omaggio a Primo Levi con Primo e un altro capitolo del recital letterario. Ci parli un po' di questo progetto? È un progetto che abbiamo iniziato un paio di anni fa su Italo Calvino, su questa storia fantastica che è il Cavaliere Resistente, che parla di questo cavaliere durante il periodo di Carlo Magno, che c'è tutta l'armatura, ma dentro l'armatura non c'è niente, è vuota, però c'è un cavaliere che esiste comunque essendo vuoto. Ed è tutta l'ispirazione da Orlando Furioso e tutti questi personaggi dei paladini che raccontano storie d'amore, di battaglie, di guerre, molto fantastica. Cosa apprezzi della scrittura di Calvino? A me piace moltissimo la sua fantasia, il suo universo che riesce a creare mettendo insieme le sue parole, e le sue parole creano immagini nello spettatore o nel lettore. E questo è un po' che abbiamo cercato di realizzare con questo recital, di essere più fedele possibile alla sua fantasia, al suo pensiero, alla sua mente. E questo è un po' quello che cerchiamo di dare e inculcare o mettere dentro la testa degli spettatori che poi saranno presenti domani sera e le altre sere qui allo spettacolo, al recital. Ma è questo suo mondo fantastico, ma anche leggero, con leggerezza, tocca piani che veramente sono magiche, sono fantastiche. Ci sono tante altre cose, c'è tutta la fantasia, si è detto, però comunque sono i personaggi, è l'amore, sono i grandi sentimenti, è l'amore, è la battaglia, è l'onore e tutte queste cose qui messe insieme. Come avete pensato la messa in scena? È un po' come Primo, se vuoi, che racconto, ma poi piano piano faccio i personaggi. E chiaramente è molto diverso dall'opera di Primo Levi, perché qui l'opera è fatta di tanti dialoghi dei personaggi che parlano, raccontano, si conversano, che parlano tra di loro, e questo lo faccio pure io, per cui è un pochettino più, se vuoi, recitato che in Primo, che era più diretto, raccontato la sua testimonianza. Qui invece sono rapporti, è l'amore, però facendo dialoghi, facendo anche un pranzo, un banchetto dei paladini, dove sono tanti personaggi che parlano e insieme interferiscono e si rispondono a vicenda, ed è molto complicato, però piano piano, costruendo pezzo dopo pezzo, si riesce a creare questa immagine per lo spettatore. Si avvicina un pochino più, penso, non è che mi voglio paragonare a Dario Fo, ma un po' al suo stile di raccontare, di impersonare i personaggi. Ecco. Il recital in scena a teatro, che dimensione crea con il pubblico, visto che lo hai sperimentato più volte? Faccio questa osmosi un po' con lo scrittore, in qualche modo, perché cerco le parole pure come sono state scritte, e tante volte sono anche molto letterarie, cioè è molto letterario quello che faccio, però raccontandolo e giocandolo si riesce a evocare, a essere quelle parole che Calvino ha scritto. E in qualche modo penso che lo spettatore ha questa sensazione come quando legge un libro. Cerco un po' questo, cerco l'immaginario, no? Di evocare con le parole di Italo Calvino, cerco di evocare questo nell'immaginario dello spettatore, e funziona molto bene, come era anche nel recital di Primo Levi, che in qualche modo, vedendolo, piano piano uno entra dentro e vive le parole dello scrittore. Jacob, dopo queste due tappe ad Ostia e Roma, prosegue il suo percorso? No, abbiamo un po' di spettacoli di Primo Levi in Olanda, in altri posti, in Austria, e poi io faccio altre cose, insegno per l'Università di New York a Firenze per 6 settimane, un po' di altre cose. Io penso che lo riprendiamo o per l'estate o per l'autunno, in ottobre e novembre. Okay. Una cosa importante da dire pure che è stato prodotto da Enrico Carretta, e poi vorrei dire anche la regia è fatta da Mando Pinheiro insieme con Jim Calder, che ho lavorato a New York per un paio di settimane, i costumi sono di Margaret Reu, scene Antonio Bellardi e luci fantastici di Fabrizio Giometti. Poi ci sono anche tanti altri personaggi però che ha collaborato, ma posso, il pubblico può venire a leggerlo sulla locandina. E allora ricordiamo la prima nazionale del recital letterario Il Cavaliere Inesistente, tratto dall'omonimo racconto di Italo Calvino, con Jacob Olesen in scena, al Teatro del Lido di Ostia dal 30 marzo al 1 aprile e al Teatro Torloni a Roma il 3 e 4 aprile. Jacob, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Con l'autrice e attrice Silvana Mariniello per parlare dello spettacolo Luce Bianca, che sarà in scena il 6 e 7 aprile 2019 a Roma al Teatro Igramul. Silvana, ben trovata. Buongiorno a tutti, salve. Ti racconti di questo lavoro? Sì, certo, sono molto contenta che sono in trasmissione da voi, perché è una radio che mi piace molto e che apprezzo da tanti anni, che si occupi di teatro, è una cosa grandiosa. Dunque, questa Luce Bianca è una mia riscrittura da Cecità di Saramago. Innanzitutto io devo ringraziare il fatto di essere entrata in questa lettura già da qualche anno, naturalmente, questo premio Nobel, perché comunque insomma mi era rimasta nelle corde questo meraviglioso romanzo, che però in qualche maniera, ecco, quando di solito succede una cosa del genere a chi scrive per il teatro, in qualche maniera poi prima o poi scriverà qualcosa su quell'argomento, perché non te lo togli dalla testa, insomma. In più devo dire che Cecità è un libro di grande attualità, un'attualità forte, nel senso che oggi al mondo succedono tante cose, è un mondo in cambiamento, dove però diciamo le stringhe vengono tirate da una parte per non cambiare, dall'altra parte per cambiare, quindi bisogna aiutare queste stringhe del cambiamento, perché evidentemente c'è necessità di cambiare, e appunto in Luce Bianca questa luce, che il colore dovrebbe essere un colore verso il vedere, invece in realtà è una luce che non fa vedere, come a dire, insomma, in realtà si può anche spegnere completamente questa luce, quindi possiamo andare, invece dobbiamo andare verso il cambiamento. È tutta una metafora, la metafora del non voler vedere o del non saper vedere. Nel raccontare questa tematica, questo plot, al femminile, devo dire, perché il romanzo da questo punto di vista ha un personaggio che ho ripreso, che è questa donna, è l'unica in realtà che non ha perso la vista, quindi lei vede delle cose incredibili e cerca anche di portare il gruppo che lei segue verso una luce che splende, una luce che attraverso cui si possa vedere. Quindi io interpreto questo personaggio, ma anche altri personaggi che sono nel libro, quindi questo è un testo monologante, io chiamo così i testi dove c'è un solo personaggio in scena che però interpreta più personaggi. Del testo di Saramago cosa apprezzi? L'attualità. Il fatto che lui, attraverso la metafora, che poi insomma, ecco, diciamo, tutto ciò che è poetico, artistico e poetico, c'ha sempre di mezzo la metafora, ti dice una cosa in modo che tu, attraverso come uno specchio, possa, senza essere colpito direttamente, possa vedere quello che si vuole dire. Quindi c'è questa metafora incredibile di un tempo moderno che lui sembra che l'abbia scritto ieri. Mm-hmm. Ecco, questa era, per cui ecco una parte centrale per cui ho potuto anche imitare, adesso lo voglio dire in radio perché mi fa molto piacere, l'ho saputo solo ieri, che nel foyer del teatro ci sarà anche la presenza con un banchetto informativo della Casa Antiviolenza di San Basilio. perché ecco queste realtà che poi diciamo, a livello istituzionale vengono sottratte al nostro servizio, in alcuni casi ci sono molto importanti e devono continuare ad esistere. E quindi ritorno un attimo al personaggio che tira le fila di tutto il racconto, nonché della performance teatrale, questa donna che purtroppo insomma ha state le mani anche dei delinquenti, non solo lei, anche tanti altri, quindi ci sono anche dei momenti che sono stati trattati molto molto diciamo adeguatamente dal mio regista, che in questo caso è Vania Castelfranchi, che mi ospita anche in suo teatro a San Basilio, in teatro Iramul, e appunto abbiamo trattato questa tematica della violenza, proprio la violenza fisica, attraverso dei mezzi teatrali molto particolari, in modo che arrivi direttamente ma non violenti lo spettatore, insomma. Quindi abbiamo utilizzato diciamo molte tecniche sceniche, e in primis noi abbiamo una macchina scenica che accompagna tutto il tempo il racconto e che è la protagonista. Questa macchina scenica dalla quale escono tanti oggetti, per ogni scena c'è un oggetto che viene preso e poi riportato in questa macchina scenica, anche nel caso della violenza, per l'appunto, diciamolo, c'è un burattino che interagisce con l'attrice. Visto che c'è l'evento Facebook, altri riferimenti internet per saperne di più? C'è il sito del teatro www.igramul.net, dove ci sono tutte le informazioni. Noi abbiamo fatto, c'è un numero per un SMS, per una prenotazione, e anche ci sono anche dei punti vendita amicali che diciamo fanno la prevendita, sono scritti sia nel sito sia nel Facebook dello spettacolo. Perfetto, e allora ricordiamo lo spettacolo Luce Bianca da Cecità di Saramago a Roma al Teatro Igramul 6 e 7 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Silvana Mariniello. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, buon lavoro a voi, arrivederci a tutti, buongiorno. L'autrice, regista, attrice Marzia Ercolani per il suo spettacolo I colori maturano la notte a Roma al Teatro Torbella Monaca giovedì 4 aprile 2019. Marzia, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti quanti, ciao Federico, ciao. Raccontaci un po' di questo lavoro. Sì, allora, questo lavoro che parte dall'esigenza che avevo e ho di raccontare quello che accade, che accadeva nei manicomi prima della legge Battaglia. Legge Battaglia, ossia la 180, tanto criticata, eccetera, che il 13 maggio, questo 13 maggio, compierà 40 anni. E avevo bisogno, volevo raccontare la storia, diciamo, della gestione delle malattie mentali attraverso l'esperienza di un personaggio così potente, così immensamente umano e poetico, che è stata ed è tuttora Alda Merini. Quindi in realtà è sicuramente un omaggio a lei, ma diciamo che attraverso lei noi veniamo a scoprire cosa accadeva dentro i manicomi. Sì. Quindi io ho scelto di riadattare completamente, quindi ho creato una drammaturgia che è quindi un adattamento del diario di una diversa, l'altra verità, diario di una diversa, che è il diario che lei scrisse in quegli anni, nei suoi 10 anni di degenza al Paolo Pini di Milano. Poi ovviamente io ho creato insomma una serie di finestre poetiche che più o meno sono quasi tutte prese da Terra Santa. La Terra Santa per lei è stata proprio il manicomio, cioè questa raccolta poetica in qualche modo che rappresenta il suo ricordo, il suo approccio agli anni del manicomio, ecco. E poi ovviamente ho inserito vari aforismi, altri versi presi da altre raccolte, quindi creando questa drammaturgia che però comunque è mirata ai 10 anni di manicomio e basta, questo è. Senti, musiche originali di Stefano Scarfone. Esattamente, in tutta questa follia, se possiamo dire, in tutta questa follia mi accompagna in scena live, è un chitarrista eccezionale che appunto è Stefano Scarpone, che ha firmato e firma anche le musiche originali e quindi diciamo che è un grande monologo, ma in realtà è un dialogo, perché la musica si intreccia proprio con il racconto costantemente e io stessa, mentre interpreto, mentre agisco in scena, comunque creo un rapporto con lui, che quindi non è in scena così esclusivamente, anche se non è poco, non sarebbe poco comunque, esclusivamente per accompagnarmi, ma realmente per dialogare proprio, per parlare con il suo linguaggio, che è il linguaggio strumentale chiaramente, della chitarra e chitarra, poi beh, effetti, sonore, intuizioni, loop station, eccetera, e quant'altro. Tornando ad Alda Merini, cosa apprezzi della sua opera? Tantissimo, io apprezzo il suo essere una sorta di yin yang, nel senso è, per me lei è potentemente sacra, ha un enorme senso del sacro ed è profondamente profana nello stesso tempo, quindi veramente riesci a cogliere nel suo scrivere, nel suo animo poetico, la luce e l'ombra, entrambi i contrasti, lei è costantemente piena di contrasti, di te oscuri, e poi anche che è una voce però piuttosto trasparente, nel senso che chiara, diretta, arriva anche giovanissimi, arriva a chi è poco abituato alla lettura, all'ascolto poetico, per esempio, alla scrittura poetica, ed è per questo che mi sembrava davvero il personaggio più giusto per raccontare quello che accadeva nei manicomi. Io in quel periodo, quando ho scelto di fare questo progetto, stavo in realtà lavorando a un altro progetto che mi vedeva, mi aveva passato una fase di studio su Suor Tò, che è un altro grandissimo del teatro internazionale, che ha vissuto in manicomio, quindi ha avuto dei forti problemi di salute mentale, ma per esempio lui è un personaggio che non mi avrebbe aiutata a raccontare, perché non è di immediata lettura, non è di immediata, è una scrittura di un altro tipo, invece lei credo che davvero abbia questa capacità di arrivare al bambino di 5 anni o a comunque in generale alla persona che normalmente non legge e non frequenta la poesia. Lei arriva, sì. Diretta, questa è la cosa che apprezzo fortissimamente di lei. Sì. Come hai pensato la messa in scena, Marzia? Allora, la messa in scena io ho evitato volutamente di creare un'ambientazione realistica, e quindi ho evitato di creare una, appunto, un ambiente manicomiale, diciamo, cinematografico, se vogliamo dire così. Io ho preferito creare comunque una atmosfera tra il fiabesco e il poetico, onirico, ecco, e però avendo degli elementi che rimandano, evocano sicuramente gli ospedali psichiatrici. Quindi faccio un esempio, che senti, intendo, siamo, l'ambientazione è completamente bianca, siamo comunque in una grande specie di ventre bianco, e ci sono delle reti, due letti, che rimangono ai letti di contenzione, ma che non vengono mai usati in scena come letti. Quindi, in alcuni momenti diventano i cancelli del manicomio, in altri momenti diventano la sua casa, in altri momenti, insomma, sono delle cornici, come se fossero le cornici di un quadro, in altri momenti degli altari, insomma diventano tante cose tranne che letti in modo didascalico. E poi non so, quando descrivo il momento del bagno, il momento in cui le genti venivano lavate, che in realtà era un momento di tortura vera e propria, è un momento che descrivo sia in modo narrativo sia attraverso una bellissima poesia che lei ha lasciato, che è struggente, che descrive questo momento, in realtà uso l'acqua, uso il sapone, ma poi faccio delle bolle di sapone in scena, cioè cerco sempre di cogliere, di alleggerire il racconto, perché credo che lei abbia avuto questa grande qualità in qualche modo di reagire a questo inferno in un modo sia combattivo dall'altro sia anche ironico, sia con lo sberleffo. Mm-hmm. Diciamo, l'ambientazione appunto è, ci sono tantissimi petali di rose sul palco, perché lei cita costantemente i fiori, perché cita i colori, che, il fatto che lei è innamoratissima dei colori, cita questo parco nel quale erano inglobati i padiglioni, pieno di rose, quindi in realtà ci sono elementi di grande vitalità

con il regista Antonello Avallone per parlare dello spettacolo La guerra spiegata ai poveri a Roma, Teatro Flaiano, dal 21 marzo al 7 aprile 2019. Antonello, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie di questa vostra chiamata e questo vostro interessamento, sempre puntuali e attenti. Ci racconti di questa nuova avventura? Beh, è un'avventura dovuta, perché io è il primo anno che gestisco il teatro Flaiano, attenzione Flaiano, molti purtroppo lo chiamano Flaiano, dando il giusto onore a questo grande scrittore Ennio Flaiano, che molti non sanno collaborò molto con Fellini, e tra le altre cose, tra tanti scritti, le opere teatrali, e lui fu co-sceneggiatore di La dolce vita, La strada, Otto e mezzo, cioè tantissime cose, era un collaboratore stretto di Federico Fellini. Tra le altre cose che ha scritto questa guerra spiegata ai poveri. Che cos'è? È una forte satira sulla guerra. La cosa impressionante è che è attualissimo. E fa veramente impressione perché descrive, lui l'ha scritta nel 46 e nel 47 fu rappresentata proprio qui, come non so se ho già detto, qui in questo teatro Flaiano, che in quel momento si chiamava Arlecchino, poi fu dedicato a lui nel 68, diciamo 4 anni prima della sua morte, quindi è una meraviglia questo fatto, perché in genere nessuno, tutti quelli che hanno dedicato una piazza, un teatro, qualsiasi altra cosa, questa cosa l'hanno sempre avuta dopo morti, e invece lui almeno diciamo se l'è goduta questa cosa, perché è veramente particolare. Una satira fortissima sulla guerra, e io credo per una serie di motivi che lui, anche se in maniera molto più intensa, si è ispirato alla guerra lampo dei fratelli Marx. Sono sicuro di questo. E si ride molto, si soffre per determinate cose, è uno spettacolo che è quasi diviso in due parti, una parte molto comica e l'ultimo pezzetto è estremamente drammatico, ma vero, vero, reale. È una comicità sì. Dove un minimo, io dico sempre in maniera molto banale, 2 o 3 giorni a scuola bisogna esserci andati per capire una cosa del genere. Non è difficile assolutamente, perché abbiamo dei collegamenti con oggi impressionanti. Sì. Lui lo scrive alla fine della Seconda Guerra Mondiale ed è ambientato in un periodo che non si sa qual è. Anche noi con i costumi abbiamo spaziato nelle epoche, perché è una cosa ricorrente, cioè il potere che decide di fare la guerra solo e esclusivamente per motivi economici, come avviene sempre. Certo, certo. Per cui questi personaggi che sono riuniti, un presidente di non so quale paese, insieme al ministro della guerra, al ministro della superproduzione e altri, giocano alla guerra, perché l'interesse principale di una guerra è l'aspetto economico, assolutamente quello. Poi in guerra tanto ci vanno gli altri. Loro certo non vanno in guerra, ci vanno, e qui si è ispirato un po' alla Prima Guerra Mondiale, anche i poveri contadini che c'erano all'epoca, che non sapevano niente, li vestivano, siccome avevano il vitto e alloggio gratis, ma comunque c'era l'obbligo di andare in guerra, andavano senza neanche saper tenere un fucile in mano. Quindi c'è questo gioco con l'esercito per dire va bene, ma tanto ci avremo 90.000 morti, che poi alla fine si riducono a 250 morti al giorno, è una cifra che possiamo largamente permetterci. Ecco, questo è il gioco cinico, cattivissimo ma reale, di quello che fa il potere in caso appunto di guerre, perché così c'è un'altra battuta che dice, che saluta l'ambasciatore dell'altro paese, che veramente non voleva andare in guerra, dice va bene, ma qualche motivo c'è che andiamo in guerra, no? Per esempio la diversità, la diversa qualità delle sigarette. Conquistateci e fumeremo il vostro tabacco. Quindi è un discorso economico. Certo che è molto, molto elegante, bisogna stare attenti a ogni battuta, estremamente intellettuale, estremamente forte, con un minimo di attenzione si esce, a mio avviso, e io l'ho trovato estremamente comico, molto molto forte. Certo si ride in un modo diverso, non c'è la battuta così triviale, assolutamente, è molto forte. E certo è Flaiano. E io mi auguro, anche perché visto che il teatro teoricamente, no? Diciamo non solo teoricamente, ma è cultura, noi raccontiamo questa cosa che scritta 70 anni fa, questo ancora una grandissima forza di attualità e uno può riflettere su tutto quello che fanno i capoccioni, chiamiamoli così, quando decidono di andare in guerra. La guerra è sempre un motivo, dicevo, strettamente economico, tutto qua. Quindi è un testo in qualche maniera impegnato, perché però lo affronta in maniera estremamente comica, a mio avviso. Se andate a vedere La guerra lampo dei fratelli Marx, trovate dei piccoli collegamenti, sicuramente. Poi non so se tutti conoscono i fratelli Marx, ma sono l'esempio di una comicità molto forte, americana ovviamente, ma molto molto forte, cioè affrontare le cose serie con grande cinicità e riderci sopra. Infatti questa riunione di ministri sembrano dei pupazzetti, insomma, no? Sono superficiali e guardano soltanto ai soldi che gli devono entrare in tasca. Questo grosso modo del discorso. Può impressionare, detta così, non so che effetto ti provoca. Comunque vi dico che è estremamente comico, ovviamente. Se uno vuole affrontare un problema sociale, ovviamente, se no vediamo come l'altra volta, Non è vero ma ci credo, di Peppino De Filippo, che dove la sciata viene anche da uno sberleffo, da una battuta sulla superstizione, cose varie. Devo dirlo perché ovviamente ha un suo valore storico. Flaiano è una persona importante, un grande scrittore, un grande umorista, e basta, non posso dire bugie. Questo vuol dire che è drammatico, che uno non capisce niente, oddio quanto è noioso. No, l'abbiamo fatto brillantissimo, proprio una presa in giro del potere anche attuale, signori, perché basta vedere certi presidenti di alcuni stati, o anche basta guardare un po' i politici nostri, quello è l'interesse, avere più soldi possibile per loro, poi gli altri cittadini che te ne frega, i cittadini non contano niente. Antonello, ci dici qualcosa anche della compagnia? Beh, sì, posso elencarvi alcuni dei miei attori che lavorano con grande impegno a questo spettacolo. C'è Stefano Antonucci, che molti conosceranno, c'è Elettra Zeppi, Maurizio Battista, non quello comico, Maurizio Vincenzo Battista, c'è Riccardo Graziosi, Gaetano Mosca, per fortuna l'ho locandina qua davanti, non si sente con nessuno. Ci sono dei giovani anche, perché ci sono parte di ragazzetti giovani, come quello che viene costretto ad andare alla guerra, ecco, spiegata ai poveri, vuol dire a quelli che non sanno niente, ai poveri anche di spirito, quelli che non sanno niente. C'è un ragazzo che entra e dice: io ci andrei pure, ma voglio sapere cos'è la guerra, a cosa serve. C'è Samuel Campanella, chiudo, Maria Sole Ciferri, Luca Iannotta, Francesco Imundi e Federico Girelli, alla sua prima esperienza, un giovanotto di 18 anni, perché ci si scriveva un giovanotto di 18 anni. È un testo che rimarrà in scena fino al 7 aprile, e in questo teatro bellissimo, che è una lunga storia, perché è stato costruito nel 1928, è elegantissimo, piccolo, 140 posti, divisi da platea e galleria. È uno spettacolo, è un teatro in miniatura, diciamo, nel senso che rispetto ai teatri grandi è una versione un po' più piccola. È molto elegante, è delizioso, e vi aspettiamo, fate, rischiate un attimo, così vi rimane anche quando uscite, non vi rimangono solo le risate, ma ammazza, hai capito quelli che ci fanno, capito? Anche una valutazione un po' di quello del mondo in cui viviamo, anche se è stato raccontato da qualcuno che l'ha scritto ben più di 70 anni fa, 73 a questo punto, e dici: madonna, possibile, è stato scritto ieri? No, 70 anni fa questa persona aveva già capito tutto. E allora ricordiamo lo spettacolo La guerra spiegata ai poveri, a Roma, al teatro Flaiano, dal 21 marzo al 7 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Antonello Allo. Scusate, mi interrompo per ricordarvi che Teatro Flaiano è nel centro storico, volendo si fa una passeggiata, siamo a due passi dal Teatro Argentina, è una traversa di Via del Gesù che dà su Piazza del Gesù e quindi su Piazza Argentina. Un abbraccio, bene, Antonello, grazie. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie della vostra attenzione. Arrivederci. con Daniele Biacchessi per parlare dell'Italia liberata, storie partigiane, uno spettacolo, un libro, un film, un progetto articolato. Daniele, ben trovato. Ciao a tutti. Beh, innanzitutto devo ringraziare quelle centinaia e centinaia di persone che hanno contribuito e hanno finanziato questo progetto che è nato circa un anno fa e che in questi, proprio in questi giorni inizia il suo cammino, nello spettacolo mio con i gang in versione solista, nel libro che esce in tutte le librerie italiane il 4 d'aprile, ma che viene poi presentato il 2 aprile a Milano alla Casa della Memoria, il film girato nei luoghi delle battaglie partigiane e delle stragi nazifasciste, che uscirà esattamente nell'aprile del 2020 in occasione del 75esimo anniversario della liberazione. Mi sono reso conto che questo brutto vento e questa svolta a destra, non soltanto politica ma anche culturale, che ha avuto l'Italia in questi ultimi anni, doveva una risposta quindi culturale, quando praticamente il revisionismo storico riscrive la storia in cui praticamente i partigiani, cioè quelli che hanno liberato il nostro paese dai nazifascisti, e la memoria delle migliaia e migliaia di vittime del nazifascismo diventano tutte queste persone carnefici, e invece i buoni diventano i fascisti e i nazisti, allora bisogna ritornare indietro e bisogna scrivere la storia così come è andata. È come sai, un lungo lavoro che ho iniziato molti anni fa, fin dal paese della vergogna, ormai 12 anni fa, e poi perfezionato nell'Orazione Civile per la Resistenza, libro e oltre 400 dati in giro per l'Italia con la versione solista e con i gang, e poi con la storia di Giovanni Pesce e Nori Brambilla, sia nel libro che nel film che nel CD, e poi nei Carnefici, che era questo libro romanzo sulla storia mia e di mio nonno scampato alla strage di Mazzabotto, e che mi racconta appunto davanti al camino di una vecchia cascina di Montesole le stragi nazifasciste, la marcia della 16ª divisione Pantagranaria. Questo libro che leggerete a breve è forse il lavoro più importante che è stato realizzato sulla Resistenza. C'è la prefazione di Giovanni De Luna, uno storico importante, uno storico che ha ben presente che cos'è appunto, come è andata a finire la storia, e che si batte pure lui a suo modo come storico contro il revisionismo e contro questo incredibile evento. Orribile evento culturale e politico che c'è in Italia. Come è articolato, come è strutturato il lavoro? Quel libro ha, innanzitutto c'è questa prefazione di Giovanni De Luna che sostanzialmente parla delle storie partigiane, cioè io ho pensato di mettere in sicurezza centinaia, anzi migliaia di piccole grandi storie che ho raccontato in teatro e che ho raccontato anche nei libri, e poi la scorsa estate ho lanciato sul social un post, attraverso una serie di post mi sono arrivate circa 1800 mail di storie partigiane, cioè mi sono reso conto che noi andremo al 75esimo anniversario della liberazione e non ci saranno più i partigiani, però ci sono tutte le persone come noi che hanno ascoltato, sentito le loro storie, e quindi era importante continuare, era importante riprendere questo filo della memoria, sennò altrimenti non ci sarebbe stata più possibilità. Quindi ci sarà molto spazio per la parte storica, quindi dalla nascita del fascismo nel 19 fino alla presa del potere il fascismo che diventa regime, c'è due capitoli che sono importanti, sono molto vicini ai nostri giorni, che sono il primo, la censura fascista contro i giornali, contro i giornalisti, e poi il caso Gerolimoni, il caso di cronaca del 1925, che è un paradigma su come la politica, la dittatura fascista si prende in mano la cronaca. Poi c'è tutta una parte sulle guerre del fascismo, quindi dalla Spagna ai Balcani alle guerre chimiche del generale Graziani in Etiopia, fino ad arrivare alla disfatta dell'Armir, e poi la nascita del dopo l'8 settembre, dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, e l'armistizio dell'8 settembre del 1943, la nascita delle bande partigiane. C'è anche una lunga parte ancora precedente sulla guerra civile in Spagna, che considero il punto centrale dove nasce il nucleo poi politico e militare di una parte della resistenza dell'antifascismo, e poi tutta la lunga, terribile, orribile scia di sangue delle stragi dal 43 al 45. Ne ho raccontate tantissime, quelle del cosiddetto armadio della vergogna. C'è una parte di interviste, c'è Tino Anselmi, Giorgio Bocca, Vittorio Foa e Giuliano Vassalli, e poi c'è comunque la testimonianza di Giovanni Pesce, che cuore in buona parte del libro, fino ad arrivare a due capitoli che sono importanti. Il primo è quello sulle storie partigiane, quelle del racconto di oggi. Per esempio c'è Tiziana Pesce che racconta per la prima volta i nascondigli di Giovanni Pesce e della rete di resistenza, e non solo, anche di resistenza civile, di persone che lo salvavano a Torino e a Milano, ormai in alcuni momenti quasi certo arresto. C'è per esempio la storia dei campi internati nelle Marche, raccontata da Amalia Pentucci, oppure la storia di Sponta, partigiano tra i più incredibili di Genova, o la storia della banda Koch che ha operato a Roma e a Milano e che torturava i partigiani e gli ebrei. C'è la storia di Sant'Anna di Stazzema, raccontata da un testimone importante. E poi c'è il capitolo molto lungo e molto articolato sulla mancata giustizia, cioè su come poi tutti questi assassini, criminali, fascisti e nazisti, alla fine l'hanno fatta franca. Dalla vicenda, dalla ricostruzione del ritrovamento dell'armadio della vergogna nel 94 a Roma, nel tribunale militare, e fino a la mancata giustizia dovuta soprattutto al fatto che dal 45 in poi pezzi consistenti di apparati dello Stato fascisti sono entrati a far parte della Repubblica Italiana, gestendo poi tutto quello che abbiamo visto anche successivamente dalle stragi della cosiddetta strategia della tensione. Quindi è un filo importante, è un lavoro immane. Ho letto, ormai centinaia di libri e documentazione, ma soprattutto ho ripreso, credo, la vecchia tradizione di chi va in giro per l'Italia con il registratore o col taccuino a riregistrare nuovamente le storie. Ho pensato di metterle in sicurezza in un momento come questo, che è veramente terribile, almeno io lo vivo così, insomma. Daniele, in che rapporto sono il libro con lo spettacolo, con il progetto di film? Ma sono naturalmente collegati. Il libro ha 400 pagine, quindi c'era tanto spazio per poter raccontare e approfondire. Lo spettacolo sceglie alcune storie, una dozzina, e le mette poi insieme con le canzoni dei gang. Per esempio nello spettacolo c'è Dante Di Nanni, c'è la storia della banda Tom, c'è Tino Anselmi, c'è la battaglia straordinaria dei partigiani che liberano Firenze, la battaglia di Montichello, Ci sono i nasconditi Giovanni Pesce. Il film avrà una scansione molto differente, in quanto sarà in parte girato sia con la camera e sia con i droni in alcuni luoghi delle battaglie. E poi sarà illustrato, come sempre, da Giulio Peranzoni e montato alla fine, editato da Luca Guerri. Quindi il testo è base, resta sempre il libro, no? Perché lì dentro ci sono comunque centinaia di testimonianze a disposizione. Sì. E poi però vengono utilizzati dei linguaggi che sono ovviamente diversi. Il teatro, quello che facciamo ormai da anni con i gag, è il teatro canzone. Sì. Però adesso lo stiamo anche rivivacizzando con alcuni importanti elementi che sono proprio quello della narrazione. È come se fosse ogni sera un palco si trasformasse in una casa con un camino dove i vecchi o i giovani raccontano, i vecchi e i giovani, le storie che hanno ascoltato. È molto suggestivo, direi. Come l'abbiamo fatto a Cetona il 9 di marzo, lo riproponiamo poi in giro per l'Italia. Il crowdfunding che è andato così molto bene sia online che offline, e soprattutto i patrocini non onerosi dell'ARCI, del Comune di Milano, della COP Lombardia, di Matera 2019 e dell'Associazione Ponti di Memoria. Poi devo dire anche una mobilitazione straordinaria di decine e decine di sezioni, circoli, fiarpi e di associazioni di vario tipo. Cioè, questo secondo me è la forza di questo progetto. Non è un progetto, cioè io ho messo solo la faccia e ho messo solo, come dire, l'arte, e poi il resto lo stanno facendo le persone, come è giusto che sia. In chiusura, Daniele, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Su Facebook trovate l'Italia Liberata Storia Partigiana, è una pagina ormai che ha tantissimi contatti. Devo dire che ho cancellato circa 600 post nelle ultime settimane di persone comuni. Credevo inizialmente fosse organizzata questa cosa, ma invece erano persone comuni che parlavano dei partigiani come infami traditori e cose di questo tipo. Questo per far capire qual è il clima del paese, che purtroppo è cambiato. Però c'è anche tanta gente che non ci vuole stare, e quindi quella è una pagina interessante, perché è una pagina anche di discussione. Poi va bene, c'è il mio sito che è danielebiachessi.it. Poi c'è anche, ancora fino al 2 aprile, c'è ancora spazio per poter donare e chiudere il crowdfunding, che sta andando benissimo, su bicrowdy.com. E quello è stato uno dei punti di raccolta, diciamo, economica, ma volevo chiudere dicendo che per me crowdfunding non è la raccolta dei fondi, ma è la condivisione di un progetto. È solo l'ultima parte, no? Se non c'è una condivisione di un progetto più generale, è il fatto di farsi accompagnare da tante persone condividendo un'idea che tu metti sul tavolo, e poi le persone si muovono e lo fanno diventare loro. Questo è stata un po' per me l'esperienza di questo progetto. E allora ricordiamo il progetto multimediale L'Italia Liberata, Storie Partigiane, con uno spettacolo, un libro, un film. Un saluto e un ringraziamento all'autore Daniele Biacchessi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto, Daniele. Grazie a voi, anche un bocca al lupo anche a voi, a tutti. Grazie. Ciao. E siamo arrivati all'agenda della settimana teatrale romana vera e propria, dopo aver sentito alcuni ospiti per segnalare degli spettacoli, con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci segnalerà tutto il resto. Ciao Simone! Oh, buon pomeriggio, eccoci qua, presente! Ma possiamo anche segnalare nuovamente quelli di cui abbiamo parlato, chiaramente. Certo, sì. cioè, anche perché se lo dici tu non ha la stessa autorità che se lo dico io, giusto? Come caccia via, guarda, dice malissimo stavolta. Dici un po'. Dunque, allora, cosa andiamo a vedere questa settimana? Allora, partirei dal teatro di Via Giulia, Off of Theater, dove dal 2, da questa sera fino al 7 di aprile, andremo a vedere la pièce L'effetto che fa, ispirata all'omicidio Varani, che insomma negli ultimi anni abbiamo letto nelle cronache e visto nei telegiornali, quando appunto i due ragazzi, Manuel Post e Marco Prato, per vedere l'effetto che fa, appunto, come hanno dichiarato gli inquirenti, hanno torturato e ucciso il giovane Luca Varani nel proprio appartamento. Ed è un lavoro, vedi come si occupa, no, del contemporaneo più stretto, diretto, appunto ciò che è accaduto poco tempo fa. Se non sbaglio se ne sta occupando anche per un romanzo Nicola Lagioia, quindi è una vicenda che vedremo anche, diciamo, su un piano più ampio letterario di qui a poco. E il giovane regista Giovanni Franci porta in scena tre attori, Benedetto, Riccardo Pieretti e Fabio Basco, appunto, coetanei dei protagonisti della storia, perché sono tre attori under 35. I fatti sono del marzo 2016 e noi invece da stasera fino al 7 aprile andremo a vedere L'effetto che fa all'Off of Theater. Poi direi che ci spostiamo all'Ambra Iovinelli, perché Sergio Rubini e Luigi Locascio, due grandi nomi del nostro cinema, ma anche del teatro, da domani 3 aprile fino al 14, porteranno in scena, dopo aver portato in scena Delitto Castigo lo scorso anno, Dracula. Questo lavoro, ovviamente ispirato alla vicenda di Bram Stoker, ormai un assoluto classico della letteratura mondiale, è un viaggio notturno verso l'ignoto, un viaggio tra lupi che urlano, nella foschia, ai bordi delle strade, però anche un viaggio interiore, quello insomma che intraprende il giovane procuratore londinese Jonathan Harker, che è incaricato di recarsi in Transilvania per l'acquisto di un appartamento a Londra effettuato da un nobile del luogo. Questo è ciò che inizia il nostro Dracula. Dal 3 al 14 aprile lo andremo a vedere al teatro Ambra Iovinelli, Luigi Locascio e Sergio Rubini, il quale cura la regia. Poi andiamo al teatro Balconi, perché questo è il weekend che porta dal 4 al 7 aprile Emiliano De Martino a dirigere 40 metri quadri, questo lavoro che ha anche scritto lui stesso del resto, e lo interpreta insieme a Noemi Giangrandi e Laura Sorel. Si tratta di un ragazzo alle prese con decisioni connesse al crescere, i dilemmi emotivi, sentimentali e affettivi che questo poi comporta. Dal 4 al 7 aprile a Teatro Marconi per Emiliano De Martino con 40 metri quadri. Poi ce ne andiamo al Teatro Studio 1, perché 4 al 7 aprile, sempre stessi giorni, Salvatore Cannova porta questo Giacomina con Clara Ingargiola ed Eletta del Castillo, o del Castiglio se vogliamo fare un po' gli spagnoli, un racconto dedicato a una storia vera che ha come tema la depressione, questo profondo e oscuro male dell'anima. Si racconta di una storia di amicizia circondata appunto da questa malattia interiore che porterà chiaramente dei drammi all'interno del rapporto tra delle due protagoniste. Quindi Teatro Studio 1, 4-7 aprile, Giacomina. Ancora ti porto al Teatro delle Carrozzerie Nord, perché 4-6 aprile andremo a vedere un dico firmato da Teatro Revis, questa compagnia di Andrea Mazzini, compagnia marchigiana, e che porta appunto in scena ben due lavori entrambi nati dal rapporto con il fumetto e soprattutto con i fumetti di Michael e Mirko, che molto stanno avendo successo in questi ultimi anni in tutta Italia. E Scarabocchi l'ho visto ed è appunto il primo capitolo di questa collaborazione, questi fumetti che prendono vita sulla scena, insomma si allarga la percezione dell'immagine visiva, si fa anche parola, insomma si va un po' più umana, mentre invece il Papà di Dio è proprio dedicato a non ai fumetti in generale, ma proprio l'omonimo romanzo a fumetti di Michael e Mirko, quindi sarà molto più ristretto e con una dedica ben precisa a un tema, ossia all'universo. Il Papà di Dio, che ha un diavolo per capello, suo figlio è irrecuperabile, che non ne combina mai una giusta. Questo universo qua, insomma, il nostro universo e a sofferenza, malattie, la morte, e quindi insomma, tutto sommato del papà di Dio da lì a cercare di capire come abbia fatto lo stesso Dio, tuo figlio, a fare questo universo. Dal 4 al 6 aprile per andare a vedere il dittico in carta e ossa di Teatro Nervis con gli Scarabocchi e il papà di Dio. Negli stessi spazi ci sarà in una mostra con appunto gli Scarabocchi, proprio i fumetti di Michael e Mirko. Dunque, poi ancora ce ne andiamo al Teatro Palladium, perché a Teatro Palladium da questa settimana ritorna il teatro. 3, 8 aprile per andare a vedere ben 4 lavori che vado a evidenziare. Si comincia domani 3 aprile con il Teatro Tascabile di Bergamo, che porta i fuochi d'artificio, uno spettacolo sull'arte dell'attore tra Oriente e Occidente, quindi qualcosa anche di didattico in qualche modo, questa forza istintiva primaria che porta all'espressione, no, nella parola artistica, quindi una sorta di esperimento di antropologia teatrale, quello che andremo a vedere domani. Mentre invece per il weekend ci saranno ben, anzi per il weekend compreso lunedì, ci saranno ben tre cose da vedere. Sabato 6 aprile Alessandra Cristiani con Ofelia aiuta Ofelia, è un lavoro che ho visto tanti anni fa in realtà, una ricerca performativa sul muto giapponese che non ricostruisce il personaggio shakespeariano di Ofelia, ma in qualche modo evidenzia questa, cioè, cede piuttosto all'evidenza di questo personaggio, ciò che universalmente rappresenta. Mentre domenica 7 aprile andremo a vedere qualcosa da selvaggiamente sprecare, questo lavoro a metà tra la parola, la poesia, il teatro appunto, e la ricerca coreografica dall'altro, da un lato Marcello Zambati e dall'altro Elena Rosa, una decomposizione e decreazione dell'essere su questo verso, qualcosa da selvaggiamente sprecare, che è un verso di Paul Celan ed è una lama con cui dobbiamo aprire un po' il visibile e andare sempre oltre. Ma lunedì il Paese Fertile conclude con, che è questa appunto rassegna eterna al Palladium, con un racconto, una lettura con Ascanio Celestini, che porta storie di persone da solo sul palco e appunto mette in scena un repertorio di racconti e testimonianze che vanno a cercare di raccontare storie di persone. L'idea è nata da un'intervista che aveva fatto nel 2015 dopo l'uccisione di Davide Bifolco, un ragazzo di 16 anni che viveva nel rione Traiano a Napoli, e nelle parole del padre e della madre Celestini ha rintracciato la volontà di ricostruire un'immagine di questo figlio scomparso, e il racconto appunto poi si è allargato con le parole di Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi. Quindi questo lavoro assolutamente da non perdere, lunedì 8 aprile con Storie di persone al Teatro Palladium. Teatro Biblioteca Quarticciolo, questo fine settimana, qui 5-6 aprile, arriva Human Animal, tratto dal romanzo Il Re Pallido di David Foster Wallace, ed è un lavoro firmato dalla compagnia La Ballata di Lenna, una compagnia pugliese, Nicola Di Chio, Paolo Dimitri e Miriam Fiero, che insomma in questi ultimi anni sta piano piano crescendo e tra le giovani compagnie si è sempre più segnalata. Per ciò che riguarda il lavoro, appunto, andiamo all'interno di una situazione contemporanea, un ufficio, tre agenti del fisco e un'alluvione appena passata. Dall'altra parte una sala d'attesa aggredita dal pubblico. E in mezzo c'è uno schermo su cui lo spettatore vede proiettato il video reportage della giornata di lavoro dei tre impiegati che devono ripulire, diciamo, dal fango di questa alluvione le loro pratiche. Cosa significa, ci chiedono, restare umani nonostante la complessità del vivere quotidiano? Andiamo a rispondere 5-6 aprile per Human Animal al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Stesso teatro e giorni successivi, in realtà 7 aprile sicuramente alle ore 17 per andare a vedere I Quattro Moschettieri in America, un lavoro chiaramente ispirato agli eroi di Alexandre Dumas, ma più che altro al radiodramma del 1934 che ambienta la storia nell'America degli anni 30, appunto dove ci si ritrova tra gangster, pupe e sparatorie. Quindi questo è ciò che I Quattro Moschettieri sono diventati poi nel radiodramma. La compagnia che lo porta in scena si tratta di Sacchi di Sabbia, una delle maggiori compagnie italiane, ed è un lavoro dedicato ai ragazzi, ma non solo, io insomma insisto sul fatto che probabilmente il teatro ragazzi e il teatro, diciamo, per adulti va in qualche modo unificato sotto alcuni aspetti, e i Sacchi di Sabbia sono una compagnia che questo permette di farlo. La regia Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, una collaborazione di Giulia Solano, 7 aprile ore 17 pomeridiana, ma 8 e 9 aprile alle ore 10 i matinè per i ragazzi, perché insomma si dovesse trovare in zona. Andiamo anche al teatro Eliseo, perché appunto abbiamo già parlato dello spettacolo Muhammad Ali di Pino Cardone e Francesco Di Leva, appunto dedicato, biografico dedicato al grande boxer scomparso di recente in questi ultimi anni, che sarà in scena dal 4 al 18 aprile. Segnalo anche, Simone, ricordo anche che abbiamo in archivio del nostro radioteatro due spettacoli di Pino Cardone, L'armata dei sonnambuli e lo spettacolo dedicato a Stefano Cucchi. Ah, benissimo, benissimo, ecco, assolutamente, Stefano Cucchi, insomma, ultimamente è tornato molto fuori nelle cronache, perché dopo i Davide di Donatello ha Sulla mia pelle, Borghi ha dedicato proprio a Stefano Cucchi i premi del film, e questo mi sembra una cosa molto importante. Da questa sera invece, nella Sala Grande del Teatro Liseo, per varie, dopo tante stagioni, torna ancora Eugenio Allegri con la regia di Gabriele Vasis, 2-18 aprile, per 900, Alessandro Baricco, la storia appunto di questo del pianista sull'oceano, come ci ricordava Tornatore, che l'ha messo al cinema questo lavoro. 900 si tratta di un monologo di questo pianista a bordo del transatlantico Virginia, anzi dell'amico di un pianista incredibile a bordo del Virginia, un uomo che non è mai sceso dal proprio transatlantico ed è sempre rimasto a vivere in questo spazio di movimento che è il mare. Dal 2 al 18 aprile 900 di Alessandro Baricco con Eugenio Allegri al Teatro Eliseo. Io chiudo, Federico, andando a pescare quante cose, devo dire ancora due cose. Allora, una è dedicata alla poesia, Confessioni di una diversa Alda Merini, I colori maturano la notte, e sarà giovedì 4 aprile al Teatro Tor Bella Monaca con la voce e il corpo narrante di Marzia Ercolani. Ci saranno le musiche di Stefano Scarpone, lo stesso Ercolani che dirige questo lavoro appunto dedicato a 40 anni della legge Basaglia, alla grande poetessa rinchiusa per tanti anni e che finalmente, insomma, il tempo le sta dando giustizia, finalmente viene riconosciuta per il grande valore culturale e intellettuale che ha avuto. Per ciò che riguarda invece forse lo spettacolo della settimana che ti segnalerei, non posso non portarti al Teatro Sala Umberto, perché questa è la settimana dell'arrivo a Roma di una compagnia meravigliosa, Federico, Family Floats, compagnia tedesca che torna in Italia con questo spettacolo che a Roma non era mai stato, Hotel Paradiso. Si tratta di un lavoro che sarà in scena dal 2 al 7 aprile, diretto da Michael Vogel. Loro fanno teatro di figura ma molto particolare, con le maschere, e c'è poco veramente da dire, bisogna solo andarlo a vedere. Dal 2 al 7 aprile, Sala Umberto, Hotel Paradiso, Family Floats. Un abbraccio, Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.